Lisa Ferlazzo Natoli, ben ritrovata. Ben ritrovati voi, ciao a tutti. Che dici? Come state prontissimi? Siamo prontissime, siamo come i matti, perché quest'anno Lisa è una creatura un po' strana, che è un po' fra l'installativo, con tutte queste ore e mezzo di immagini bellissime di Anzi Lume, il sonoro, perché ci sono tutte le registrazioni degli anni passati, anche degli inediti, e c'è anche una parte dal vivo in cui questi nostri traghettatori, steward, hostess, guide degne della guida galattica dal vivo introducono lo spazio, le istruzioni per l'uso, eccetera. Quindi è una creatura molto strana che quasi non controlliamo neanche noi, molto bella. Senti, l'inedito è tra i racconti brevi che formano un insieme da un'ora e un quarto di cinque racconti? Guarda, c'è un inedito nel Radio Recall, ma quello è un segreto e non ve lo dico. Certo. Invece quello che posso dire, che è della Guida Galattica, ci sono dei piccoli pezzi in più, e poi gli altri inediti sono quelli dei traghettatori, dove noi abbiamo a piene mani rubato e fatto un omaggio alla Guida Galattica. Quindi ci sono tre livelli diversi di inediti: un racconto registrato apposta, la Guida Galattica, due pezzi in più registrati apposta, e tutta la struttura dei traghettatori che è dal vivo. Quindi la Guida Galattica a questo punto in versione completa è più di un'ora e un quarto. 12, diciamo che durerà un'ora, l'anno scorso durava 55 minuti, e adesso dura più o meno un'ora e 10, sono 12 episodi invece di 10. Okay. Allora procederemo. Questo è il nostro quarto appuntamento al Radioteatro per IF. Siamo stati insieme per Blade Runner, I Canti della Mutazione, Radio Recall e Minority Report. Esatto, quindi ci mancano per stare insieme nei fatti Solaris e la Guida Galattica. Esattamente, più l'inedito di Radio Recall. Okay. Esattamente, quello potrebbe essere una coda sorpresa per i nostri spettatori. Perfetto. Allora, Lisa, per chi ci ascolta, stasera andate in scena in forma registrata, però con i traghettatori che sono in carne ed ossa. Racconta un po' come ha strutturato il tutto. Allora, in realtà non andiamo la sera, infatti è un oggetto particolare, noi facciamo tre cicli, come se quell'auditorio indimensionato si accendesse per tre volte, uno alle 17, uno alle 19 e uno alle 21. Okay. Le persone arriveranno, si godono il delizioso giardino dell'auditorio indimensionato, ci sono libri, ci sono i nostri gadget, viene offerto anche del vino, e a un certo punto, mentre stanno chiacchierando, inizieranno i traghettatori bizzarri, sgangherati, un incrocio fra la Guida Galattica e tanta Motown americana, beh, Blues Brothers, a chi più ne ha più ne metta, e questi traghettatori faranno un pezzo più o meno ognuno diverso ogni giorno. Allora, abbiamo sentito che i traghettatori più o meno faranno un pezzo al giorno e poi sei sparita. Sì, sarà un attore diverso e un pezzo di scrittura diversa, perché i personaggi sono completamente diversi, e sarà un pezzo al giorno per ogni ciclo, quindi introdurranno sia alle 17, alle 19 che alle 21 i nostri 24 spettatori all'interno del funzionamento di questa strana stazione orbitale radiofonica. Sì. E quindi diciamo che nessuno vedrà esattamente la stessa cosa, questo è quello che è interessante. Senti, lo abbiamo appena ascoltato, la forma registrata è perfetta radiofonicamente, c'è una leggera eco nelle voci degli attori che quindi rimanda a uno spazio più ampio e anche fuori dal tempo, e poi c'è la struttura sonora musicale di Gianluca Ruggeri. Sì, di questa cosa che mi dici, appunto, l'ambiente con un lieve eco, perché noi potevamo fare due cose: o registrare direttamente, no, dai microfoni, o assumerci il rischio di considerare l'ambiente dell'auditorium. Sì. Quindi abbiamo lavorato sicuramente a multitraccia, però in una, diciamo, uno dei microfoni, anzi due, scusami, hanno preso anche l'ambiente, e quindi come dire, una lieve sporcatura in più, però per noi dava il contesto, il luogo, certo, perché poi la radio anche non è neutra, certo, no? Non esiste un posto vuoto. Sono molto contenta di questo che mi dici. Senti, ecco, la musica e i suoni sono una parte fondamentale di tutto il progetto. Definiscono Gianluca Ruggeri con diciamo, la struttura di suoni che ha pensato per ogni sera, ha definito l'ambiente chiaramente musicale, letterario, antropologico, nel senso ampio del termine, di ogni serata che abbiamo fatto. E anche la collocazione, per esempio, nei canti della mutazione, a un certo punto quasi nascosto, e non so neanche quanto il pubblico lo percepisca esattamente in maniera chiara, c'è un canto delle balene. Sì, sì. Di questi straordinari, no? Questi straordinari mammiferi che noi conosciamo e non conosciamo, e che hanno, però per noi è come se fossero l'origine del mondo, no? È immediata la reazione fisica. E quindi il tipo di riflessione che abbiamo fatto con Gianluca è stata proprio questa, quindi abbiamo accorpato i racconti dove ne sentivamo delle vicinanze, certamente tematiche per familiarità, ma profondamente musicali, laddove si intende la musica un contenuto, sì, no? Sì, sì, che sì, racconta sì. Nei piedi, chiaramente lo spettatore non deve fare un lavoro intellettuale, ma si deve sentire portato in un luogo che riconosce. E probabilmente credo di poter parlare anche per Gianluca Ruggeri, che adesso è in prova con un'orchestra di tedeschi. Forse questi sono quelli che più, sì, sì, è così, sono quelli che più ci hanno commosso, proprio nel senso di mosso, no? Perché è l'incontro con l'altro, sì, sì, sì, fondamentale, sì. Che siano delle termiti o gli alieni intesi in senso stretto. Senti Lisa, mi dicevi nella conversazione precedente che questa edizione va in forma registrata, che come riassunto delle anche se certo. più articolato delle due precedenti, certo. E per l'impossibilità materiale di fare una versione live per una serie di motivi, dal bando ai permessi. Sì, sì. E ti ringrazio per questa domanda, perché diciamo è chiaro che noi in qualche modo, quando ci è venuta questa idea, un'idea cara, perché come sai benissimo Federico, noi facciamo un lavoro che è proprio è quasi un melologo, quindi attiene alla radio, attiene alla registrazione, e sì, qui quindi artisticamente ci riconosciamo. Detto questo, la natura del bando fatto dalla città commissariata, quindi non dall'assessore Bergamo di adesso, che in qualche modo faccio un esempio su tutti semplice, così che gli ascoltatori possono capire: è cambiata la definizione, non si dà più un finanziamento a chi vince il bando, ma si dà un contributo. Quindi, come dire, tu mi stai aiutando ad arrivare alla fine del mese, non finanzi un progetto. Certo. La lingua italiana dice molto bene questa differenza, no? Sì. E per esempio, la seconda, il secondo problema, che insomma, proprio per spiegare a tutti, perché si sappia cosa succede in città, è che non c'è niente, il Comune di Roma quest'anno non dà niente anticipato. Io devo anticipare tutto. Allora, non io, Lisa Anatoli, con la Casa d'Argilla, non è il punto, non siamo noi, il punto è tutta la città. Tante associazioni virtuose, piccole, che fanno progetti molto particolari e magari non fanno patti con il commerciale, contro cui non ho niente, però magari lavoro meglio su altro. Nella misura in cui dobbiamo anticipare tutto, si presuppone che o abbiamo e siamo commerciali, quindi troviamo uno sponsor, o che sono ricchi di famiglia. E l'una e l'altra cosa va bene, perché io devo anticipare come soggetto. Sì, quindi sì, sì. Quest'anno c'è stata una sofferenza in tutto l'associazionismo, uno fra tutti, Anomalie, che forse è il più importante festival, anzi senza forse, di teatro sperimentale nelle periferie romane. Chiaramente con questo sistema, o se parliamo del fatto che anche dobbiamo pagare anche l'allaccio della CEA, vi potete immaginare che cosa è successo ad Anomalie, che è tutto all'aperto, per esempio. Sì, no, sì, per sì, non sì. parlare di noi, sì. Ma per dire cosa succede in città e cosa poi questa che ricaduta artistica ha, non certo. oggi, ma sicuramente domani, certo, perché certo. io non mi posso più permettere di fare una cosa che abbia, che corra un rischio, ecco, no? Sì, sì, sì, sì. E sì. allora credo che forse nel grande centro storico della città di Roma, che pure io amo, nessuno se ne accorge, ma se Anomalie scompare è un danno enorme. Sì, sì, sì, no? sì. Senti, ecco, concludo. Lisa, comunque andate realizzate questa terza edizione, e sempre nel luglio scorso, quando ne abbiamo parlato, ci anticipai sì. qualcosa sulla vostra visione del 2017, ossia un viaggio nel cyberpunk, se non sbaglio. Sì, e questo è un appuntamento su cui noi avevamo già cominciato a lavorare, perché appunto si comincia, diciamo, marzo più o meno, a fare riunioni, leggere, discutere, e lo abbiamo sospeso per quest'anno, ma è assolutamente un appuntamento che ci diamo per l'anno prossimo, sempre che i bandi siano ridisegnati in maniera dignitosa. Però è un appuntamento nostro artistico, che innanzitutto parte dal padre di Ballard, chiamiamo la follia, per arrivare agli esperimenti più estremi sul cyberpunk, e ne stiamo discutendo molto anche adesso, perché molte delle scritture cyberpunk è come se avessero fatto un patto straordinario tra letteratura e cinema. Il ponte è quello, no? Sì. Quando si tratta della letteratura che poi viene messa in spettacolo dal vivo, è più complesso, quindi è un oggetto difficile, molto stimolante per noi. E se ci riusciamo, vorremmo portare a, come dire, alle estreme conseguenze questo ragionamento l'anno prossimo, rilanciando come dei matti, e fare all'auditorium di Mecenate tutta la parte registrata che continua a sommare tracce, inediti, sì, sì, e tutte sì, le nostre follie, e al planetario di Piazza della Repubblica tutta la parte dal vivo. Questo è l'altro progetto. Bene, bene. Così che dialogano, e sono due luoghi diversi, hanno il loro respiro, e le persone non devono strozzarsi per vederle, riuscendo sempre anche l'anno prossimo a mantenere la più completa gratuità d'entrata, perché siamo convinti che questa città ne ha bisogno. Benissimo. Allora Lisa, credo che ci vedremo una di queste sere, ricordiamo le date. Sì, da oggi, martedì 20, fino a domenica 25, da martedì a venerdì 17, 19, 21, sabato e domenica abbiamo anche due cicli mattutini, 11:30, sia sabato che domenica, e poi 17, 19, 21. Benissimo, un abbraccio. Anche a te, Federica, grazie. Ciao. Buon lavoro. Ciao, ciao.